Cuccano alle 10, c'è qualcuno in ascolto. Succhiamo! Birri! Birri! Adesso Birri! Succhiamo! Birri! Самым оптимальным целям. Ремонт ваших отопителей с гарантией 6 месяцев. Наличие новой единицы в час. Режим работы с 9 до 30 часов. Телефонный код 10, c'è qualcuno in ascolto? No. Come no? No, garantito. Ciao Michael. Questa è una risposta automatizzata, in 27 non c'è nessuno. È un canale di molti e non se ne sono accorti. Io stavo lì, c'avevo il caffè in mano, li avevo messi in freezer per belli belli freddi, tipo shakerato, no? Lo stavo portando a mamma e uno a me, e mi stavo ascoltando musica. Ebbene, Natà, come va? Che palle, queste serate non passano più. Poi domani, domenica, peggio. Sì, infatti, dovevo andare al mare io stasera, e mi avevo invitato Franco, ma sto aggiustando qua. Mi manca solo il bagnetto, e ho finito. È quasi finito anche questo. Sì, ma ti sta dando una mano vicino? E allora? Mi sta dando una mano lì, se no io come faccio? Lunedì poi devo andare a fare la visita dal chirurgo vascolare per la gamba, no? Speriamo che riesco a farmi operare. E quindi ha la mano buona per queste cose. No, manco il nome mi ricordo. Vabbè, dai, per non far nomi, il vicino. Sì, lui lo sa fare. Anche io lo sapevo fare, ma come faccio con questa gamba? Lo so, macello, finché un po' la metti a posto. Così ne fai aggiustare due gambe, fa aggiustare, quella lì col problema e poi quella di mezzo anche. Ti fanno un bel lavoro, un bel mangaglio viene fuori. Infatti adesso glielo dico di sturare anche quelle, le arterie tutte, in modo che viene fuori un bel mangaglio. Così il sangue fa bella impressione, mi. E allora, se non mi faccio mettere quell'attrezzo che aveva il compianto Berlusconi, due pompate e su che andiamo. E perché cosa aveva? Cosa si era messo? Quegli orrori da impiantare? No. Mi dice, guarda, io mi sento male solo a pensarci. È una cosa innaturale, cioè alla fine uno o rinuncia a trombare, ma mettersi addirittura la pompetta, già ho capito cosa stai dicendo, sì, adesso, l'ho visto una volta su internet, è impressionante, no, mi sento male. E il Berlusca tirava due pompate e via, e poi si pompava le oggiattine. E perché? Problemi avete? Qua mia Gianni, Gianni il caldo. Sì, sono caldo ancora di più perché sono uscito dalla doccia adesso, in questo momento. E io me la faccio dopo. Ciao Gianni, parli di sesso e sei a piglio Gianni. E c'è Gianni il caldo, ci mancherebbe che non ci fosse lui. Io l'ho provocato a vedere se entrava. No, ma io qua ho acceso, ho sentito che stavate già parlando di queste cose, scurrivi. Sì, adesso sono scurrivi, c'è roba che si trova già, già. Comunque l'ho visto anch'io su internet, la pompetta. A me me l'ha detto una persona, io non l'ho visto su internet, ma dice che il compianto Berlusca avesse una pompetta, dice due pompate e su che andiamo. Allora, te lo spiego com'è, ma la inseriscono all'interno, nella materia. E praticamente risulta sotto, c'è praticamente questa pompetta, tu pompi e raggiungi l'erezione. Poi per sgonfiarsi c'è un pulsante, lo abbassi e si sgonfia. Ah, tipo la macchinetta della pressione. Esatto, così sì. Ma la pressione va a 2 o a 2,2? A 2,5, la mia. Cavolo. No, guarda, il pensiero è impressionante, cioè uno dovrebbe arrendersi alla fine, no? Ma farsi impiantare nei corpi cavernosi una specie di palloncino che tu gonfi per avere la finta erezione, poi a parte che quando toccano le parti basse per via della prostata, io chiedo stato male, ma mi sento male solo a pensarci, quando si parla di operazioni alle parti basse mi scende la pressione già. Sì, ma infatti uno poi si deve arrendere, no? Dice l'età è arrivata, purtroppo è così. E ma chi tu pulisce, io 80 anni tu impava Roma stessi. Ma bisogna essere sensibile, se c'è sensibilità, non so cosa ci provi. Beh, penso di sì, se ce l'ha fatto fare lui, evidentemente sapeva, l'avranno informato di quello che succedeva, no? Ma è una cosa meccanica, non è una cosa comandata al cervello, hai capito? Quindi magari non c'è sensibilità, io penso che sia così, non lo so, non l'ho mai provato e vi auguro di provarlo più tardi, se dovessi farlo. Secondo me la sensibilità dell'organo c'è, cioè le innervazioni sono sempre quelle. Diciamo che c'è un supporto, ma a quel punto già meglio. Vabbè, Berlusconi è un caso limite, dai. Intanto quella amichetta sua, l'ultima, mi pare che l'abbiano estromessa da tutto, non le hanno lasciato niente. Ma lui a farle almeno intestarle qualcosina, un regalo, no, per averlo sopportato, niente. E poi hanno messo Maria De Filippi al funerale di Berlusconi che si stava baciando in bocca con Pier Silvio. Si stava baciando in bocca con Pier Silvio. Oh, c'è l'amichetta del padre. Ma sì, dai, rimane tutto in famiglia. Sì, dice che è da tempo che se la intende con Pier Silvio. A quanto hanno detto i ciaramini, poi se hanno fatto qualche fotomontaggio, non te lo so dire. Però prima si è vista lei che lo bacia nelle guance e poi si sono baciati in bocca. Visto, i ricchi possono fare di tutto, sono viziosi, con i soldi si fa tutto. Peccato, ma le circostanze la buono. Ma Silvia Riegia, l'amica di Pier Silvio, che Maria De Filippi se lo bacia in bocca a Pier Silvio, una bonazza simile. Silvia Toffanin è l'amica sua, però non c'entra nulla, magari questa gente qui pretende sempre di più, capito? Non si accontenta mai della famiglia, deve andare sempre oltre, è come ti rubavo, chi va con lo dopo impara a duplicare il giaisso. E infatti, che Silvio è zoppo. Sì, vabbè, dai. Chi ha soldi fa questo ed altro, si può permettere tutto. E te credo. Comunque 100 milioni già glieli hanno dati a quella lì. Dirlo. La villa logicamente se ne deve andare. Dalla villa di Arcore, capito? Però i 100 milioni già glieli hanno dati. Le hanno dato roba, guarda che sono bei 100 milioni di euro, se non sono 100 milioni di lire, 100 milioni di euro sono quasi, non ci voglio pensare qua, raddoppia, aggiungi 3 zeri, cacchio. Non li consumi mai, i 100 milioni di euro non li consumi così, non basta una vita a consumare 100 milioni di euro. Mi allontano 2 secondi, devo prendere il telefono che è in carica, se no se mi telefono non sento nulla. Ne cappa. Cavolo, io credo l'avesse lasciata becco asciutto. Beh, non si può lamentare allora, dai. Com'è? Aspetta, il caffè reclama, mamma, aspetta. Sì, vai e portaglielo, almeno lo puoi farlo. Vabbè, fuggitice. Cosa già? Ho detto fuggitice, non vi sentivo parlare. Perché è andato a portare il caffè alla mamma, Marco. Capito? E con chi parlavo? Con Muro? Sì, magari ti rispondevo. E infatti con tutti questi muri che ci sono qua, adesso ho quasi finito, magari mi rispondono. Adesso sì che ci forte la tale, c'è il fondo scala, sì, ADB, nel più 3. Se accendo l'altro arrivo anche più forte. Quale altro? L'altro, lo accendi un attimo. Te l'ha consegnato? Sì, c'è un abisso rispetto a prima, con l'antenna bassa attaccata al muro. Sì, adesso sfoga bene l'antenna, adesso trova i punti dove passare le onde. L'altro giorno mi ha risposto la Norvegia, da una città spagnola, non si vigliano, me lo ricordo, dito tu, figlio di cane. Beh, come sto uscendo con questo? Prova! Guarda a vedere, questo è l'altro omologato. Sempre 9 più 30 e su per 9 più 30 si su di B. Ma se aumento guai, questo qui è cattivo. E allora devo attaccare l'altro per vedere il controllo, perché questo arriva a 9.30 e bu. Infatti se attacchi l'altro magari qualcosa di più. Adesso sono al minimo proprio. Infatti, minimo. Oh. Ma microfono normale? No, la V508 questo è. Posso anche aumentare, ma la radio va bene così questo. E vabbè. Già, va bene, dai. Adesso non aggiungiamo di bisogno. Mi sono sdraiato adesso. Ho finito di farmi la doccia, adesso mi voglio rilassare 5 minuti. Se non mi chiamano al telefono, come ho solito fare quando mi sto rilassando, mi chiamano esempio. L'altro l'ho sentito l'altro giorno, quello che c'è il forcetto. Quello lì col microfono normale mi stava spaccando tutto qua, e il carico fittizio aveva, perché antenna non ne ha, lui usa il carico fittizio per usare gli apparecchi. Ma non te l'ha parlato? Vuol dire che ancora non è pronto, cazzugna a radio, mamma mia, ho detto abbassa che non ti capisco, troppo forte, col carico fittizio mi tu pensa, già che quello lì c'ha dei picchi allucinanti. Ma siete anche vicini a fare. Infatti, ma lui era senza antenna, col carico fittizio era, perché l'antenna non ne ha. Ma il carico fittizio emette? Beh, è logico, se sei vicino lo senti, no, a uno. Sai perché io quando l'ho avuto, quello della Daiwa, quello piccoletto, no? Praticamente con il baracchino a fianco, con l'antenna del tetto, premevo con l'apparecchio, col carico fittizio, però non arrivava segnale, praticamente dissipava il 100% della potenza, ma non emetteva proprio RF, non arrivava l'altro baracchino. Forse con pochi watt è logico. No, lui c'ha il carico fittizio, quello grande, è il mio amico il carico fittizio, ma io non ne uso, non sono tecnico e quindi non me ne sbatte nulla. Ad olio? Sì, quello grande, allora. E poi te lo puoi fare anche tu il carico fittizio, basta mettere una resistenza da 50 ohm per poter... una serie di resistenze da 50 ohm puoi mettere per aumentare il watt. Sì, anche, vabbè, io se mi serve lo prenderò, se ancora li fa da Luca Flipper. Lui li faceva carini, piccoli, col vasettino, con l'olio, tutto pronto, col PL già saldato, cablato, a me piace la roba pronta. È il mio quel carico fittizio, è grande, un avarrasone. Tiene parecchi watt pure, quello lì. E apparecchi grandi. Lui lo usa perché non è usantenna, no, gli apparecchi lui li usa col carico pettizio. Ma Adriano se l'ha più messo antenna? Ah, se si piazza l'antenna ho finito di modulare io, che mi brucia tutto. Cazzo. E poi non ne vuole lui antenna, no, non gliela sbatte nulla a me di modulare. Infatti quando do qualche colpo in DX lui si ascolta, capito? A lui gli piace più ascoltare che parlare. Prima aveva un lineare che pilotava l'altro lineare, figurati, poi è un casino di vacca. L'avevi poi risolto l'antenna HF, fissata con quel sistema? No, non l'ho fissata ancora, sto aggiustando in casa, Marco, non... appena finisco qua, poi lunedì devo andare a farmi quella visita lì dal chirurgo vascolare, che è una donna, poi speriamo mi dia due bocchiate alla gamba di sotto per vedere se va bene. E attenzione che i chirurghi tagliano tutto. Ma questa è una donna, lo vede che è carino, gli fa caro caro, gli fa... L'occhio bianco per me. Sei fortunato, sì. E tramite un'amica di mia moglie che è chirurga, no? E ho già l'appuntamento per lunedì con quest'altra chirurga qua che mi deve visitare. C'hanno tutte le cartelle cliniche, i CD e i referti degli esami che avevo fatto. Ciao ragazzi. Speriamo sia una volta buona che ti metterà a posto la tarifa. Si tratta di farmi l'angioplastica, invece di farmela al cuore me la fanno alla gamba, capito? Me l'hanno già fatta una al cuore quando ha avuto un infarto. Aspetta che telefono per ordinare le pizze già. Sì, vaga. E io, stavo solo a mangiare, stavo... Dovevo uscire stasera, invece non mi ha telefonato, e allora già, invece non ha gamba, deve lavorare, Caspettina non risponde, ma fanguarda, sarà chiusa ancora. E presto ancora, se non ci saranno ancora. Allora sai, ieri a quanto c'avevo la glicemia, a ora di cena, a 82. Io sono con tutti i rigusi. Allora, di pranzo la misura è sempre bassa, 75, 80, 82. Beato te, che ce l'hai così bassa. Ma io faccio le insuline, faccio quattro insuline, tu prendi le pastiglie, è quello. Ma io basta che non mangi pane, se non mangio pane a me, lo sai, non la fa salire le uova, non mangiare il pane. Tutte queste cose bisogna saperle. La carne la fa salire, il pesce no. Lo so. Purtroppo. Allora sai cos'è che la fa abbassare la glicemia? Se te lo dico non ci credi. I fichi d'India. Che te l'ha detto? E su internet c'era, perché siccome ha portato dei fichi d'India il vicino a regalarli a Concetta, no? E l'abbiamo guardato su internet e dice che fa abbassare la glicemia, non solo l'altro. Fa ben bene il fichio d'India, io non mi sabbio. I fichi è che non possiamo mangiare. Quelli lì cazzo ti ammazzano. Nei fichi dell'uva. Quelli sono tremendi, i fichi e l'uva sono le cose più dolci che ci sono. E sino la banana, amico. Cazzo, mi ho mangiato una banana una volta, cazzo, mi ha fatto salire la glicemia, non ne do più, mi ha fatto mangiare la frutta, Concetta, e da voi va più la glicemia ascia, ed è la banana, non ne mangio più, non bisogna mangiare le banane. L'unico frutto dell'amore. Ma se te la massa di cuoco, ma di siete, cosa glicemia, fichi d'India, che tengo la canna quelli. Ascolta, fai da bravo, ti telefono stanotte alle 2, hai capito? O dico nome, cognome, numero di telefono. Quello tu sai. Ma tali, comunque c'è una banana a misura, se la vuoi. Cosa vuoi? Guarda la misura, quella che non fa male. No, ma io voglio che mi faccia male, vado all'asino della crucca, secondo come va lunedì, almeno mi passa il dolore alla gamba. Che... Ma tu hai detto che era... che facesse le glicemie, eh? Ce l'ho misura. Ciao a chi è entrato. Ciao Cucca. Vuoi finire? Natalia Cuocoma, vuoi finire? Ti bussa la porta alle 2 di notte, alle 3 di 4 alle 5. Io mi vengo a quell'ora, vuoi finire? E vieni, vieni alle 2 di notte che ti tiro una fucilata con fucile a pompa. È vero, ma quella con l'acqua. No, no, calibro 12. A palla o a pallettone vuoi essere sparato? Mica non giocavo a pallone io con la palla. Ah, boh, alle 4 del mattino. E vieni, vieni. A parte che ti telefono stanotte perché stai esagerando. Alle 2 ti telefono e ti sveglio, così impari. Cuocomane. Oh, dove sei? E anche io lo so, Ma te l'immagini, dice sempre cosa questo qua cuocomane. È vero. Ma è vero. Va bene, Luca, la macchina dove sta andando? Allora, la macchina sta andando bene, un amico mi ha fatto la pulizia del... Cerca tutta l'acqua, rugginosa che c'era. Andiamo a fare a casa, ci arriva. Ho fatto un bel lavoro, infatti. Adesso è a posto, dai, già... Sta prendendo forma già, essendo una macchina vecchia, sai com'è. È un casino. Purtroppo l'ho presa... con gli occhi bendati con la macchina, la fretta mi ha fregato. Cioè, avrei affrettato, avrei speso 500 euro in più, fai anche 1000, avrei preso la macchina, insomma, decente. E vabbè, ormai, senti un buttolina, faccio se una macchina lì, dove si vende le mani per un neopatentato, non meno del 2000, perché ho messo come nuovo, ammortizzatore, adesso devo fargli fare le pastiglie. Però vado di 2000, non vado, 2000 è un passaggio. Vai, cuocomane, potevi venire da me che io con la pompa dei cavalli facevo anche la pulizia del caminetto. Invece te ne compra una, io la mia l'avevo venuta una gazzata, la Opel e sta ancora girando. Sei parlato in due, vabbè, è passato Natalino. Ma cosa ti ha fatto Natalino? Non ho capito. Venivi da me e io c'ho la pompa da 20 cavalli, ti avrei fatto anche la pulizia del caminetto. Ma dove sei? E io pure, è vero. Ok. Ma va, per essere un 800 cammina. E beh, Marco. Sì, la macchina ti ha ripreso, Luca, non lo sapevo. Cosa ha dato? Problemi radiatore sporco, tipo? Beh, mettevano acqua, non me si alluginisce tutto. Infatti gli ha fatto fare tutto la una bella bassa da Deva. Mi ha spurgato tutta l'acqua rugginosa, se è a posto, ma arriva l'aria calda, va bene. E se no come faccio a spannare il vetro quando piove? Anche se passi il finestrino poi ti entra l'acqua. A meno che compri quei cosi per la pioggia. Non so come vengono chiamati. Paraturbo. Sì, paraturbo, paraculo. Quelli lì. Ma la macchina già cammina, già, si fa sentire, però se no 800 va, È interessante che il motore sia buono. Sì. Guarda, per essere del 2005 non è mai come messa male di carrozzeria. C'ha un botto dalla parte destra, c'è la parte sinistra. Ma non me la fotti nulla. Già, ripeto, la tengo tutto quest'anno e poi vediamo estate. Se qualche soldino magari la vendo quella. Tanto poi la comprano. Come neopatentati, ragazzine mai neopatentate vanno, va benissimo. Fa l'esperienza. Per lo meno di volta non la do. Beh, se c'è speso il soldi su, ce lo dico. E vabbè, magari una volta che gli fai lavoro ti va bene, ti la dai. C'ho le gomme nuove, gli ammortizzatori nuovi, adesso ho cambiato le pastiglie, ma ce n'è ancora di frenare bene, non è che ha problemi di frenatura. E poi c'è da fare, da lucidare i fari. E basta, la lavattina. Purtroppo la moquette già è così perché chi ce l'aveva prima mi sa se ne è un po' fregata, la lavava spesso e volentieri. Poi c'è la moquette sia un po'... come dire, sia un po' sporca, dai, non un casino, bisogna lavarla più volte, già l'ho portata a 30 euro alla fine, non è che mi ha fatto chissà cosa, bisogna rifortarla più volte, e poi ci sono a cambiare i sedili li ho già procurati, perché quelli dietro sono macchiati di grasso, boh, fate di schifo quello più, adesso vediamo. Potevo essere anche coppi sedili. Ma se mi si gira le palle, magari un domani cazzo ne levano anche più sedili e vengono i sedili più lanciati. Eccolo, che è vero. chilometri, questa qui è, diciamo, una macchina per tappare il buco là. Guarda già, io vado a fare la spesa tranquillamente, mi porto a casa, vado al mare, vado in piscina, vado dove cazzo voglio. Potrei scendere anche ad Alghero, non è un problema quello. Dice che è stata fatta la cinque di distribuzione, la frizione, insomma questi lavori qua. La macchina va più che bene. Quella va bene magari per una persona anziana, sai, una macchina così di piccola cilindrata, ma ho notato che c'erano molti in sé, a sassi di quella macchina. Soprattutto persone grandi, ma anche ragazze. Perché è pratica, perché trovi subito parcheggio, è piccola con una macchina e trovi subito parcheggio, se vai in città è pratica. Infatti, la macchina sta... Vedete il malachino? Ma anche no. E tutta la volta che lo mettevo non c'era mai un'anima, non è più messa. E anche a Gianni è capitato. Sì, anche io per lasciarlo lì l'ho preso e l'ho portato su a casa. Grazie al centro mi romperà mai nessuno. La mattina magari adesso lo rimpiazzo, la mattina esco se sei fatto a Palino a Giulio, perché la mattina entravano prima. Io ci sono sempre la mattina, adesso, è sempre acceso, solo che c'è uno che mette la portante col bip, lo chiami e non entra. E allora lui da Cugantà. È segnale come? Ma io già lo so chi è, non c'è problema, lo so già chi è. Ma mette portante o dai colpettini per far vedere che c'è? Ehi, mette la portante e fa bip, però tu lo chiami e non entra. E si crede di sfottere la gente, ma manco lo prendo più in considerazione, manco lo rispondo più quando fa bip. Io col bip non ci devo parlare. Natali, scusate un attimo, Alessio ha sentito? No, negativo, Salvato, non ho sentito nessuno, solo quelli che sono qui in ruota ho sentito. Anda bene, Mera. Ok, grazie Natali, ci sentiamo. Ciao, Salvato. Saluto a tutti. Tenete vi salutate tutti quanti quelli che sono nella ruota. Ecco, così mi piace. Ciao bello. Ah, e quanto sì. Avanti. Marco. Andiamo, andiamo. Signor. Ordinata lei. Sì. E a che ora la porta? 7:30. Intanto, alle 7:30. Io devo mangiare presto, che se no mi tocca aspettare troppo e non aggiungare la gita a farmi l'insulina e a cucarmi. Non ce la faccio più, sono diventato vecchio. L'insulina la faccio anche io la notte, però pissà.